stazione 10. Ecco qua, siccome gli dicevano che era fuori frequenza questa radio, io l'ho controllata ed è perfettamente in onda, però gli dicevano dimmi la radio se la senti distorta. No, no, va bene. E allora qualche uno che aveva qualche apparecchio scacciavvittato e gli ha messo mille dubbi, io gliel'ho messo qua, l'ho controllato con gli strumenti ed è perfettamente centrati, però mi ha detto Fabrizio provalo in modulazione perché magari ha altri problemi, ma invece me lo confermi tu e va bene, così glielo do e via, non aveva niente, dai. No, non c'è niente, va bene. E il presidente è questo, perché probabilmente qualche cipito che aveva la radio fu lui fuori frequenza. Ma non era qualcuno, eh? Oppure chi gliel'ha detto era qualcuno che sta usando qualche 430 senza filtro AM. Cosa vuol dire che era Salviero? Ah, non lo so chi è, perché se uno c'è il 430 e non ha il filtro in AM, non lo senti ovviamente fuori frequenza, se è troppo stretto di banda. Infatti io quell'altro 430, anzi devo darlo sempre a cosa. Via che lo chiami, quello lì avevo trovato il filtro e me gliel'ho messo dentro, adesso c'è una ricezione spettacolare. Buonasera, mica va bene, va bene. Va bene, è vero, e allora non ho capito chi gliel'ha detto che andava male. No, no, no, va bene, va bene, io ti ascolto più che bene. Ho fatto entrare Walter, ho una settimana chiamando su questo canile per vedere qualcuno se mi dava un controllo, perché me l'ha detto Fabrizio, l'ho controllato ed era a posto la strumentazione e devo provare solamente, sono una settimana cercando se trovo qualcuno per fare questa prova e quindi vabbè, non ha niente, secondo te gli ha dato qualche controllo qualcuno che aveva qualche apparecchio scacciavittato. Alla grande Fabrizio. Perfetto. Adesso ne sono tutti fuori. Meno male, almeno era Luca Flipper, era sì. No, negativo Fabrizio, Franco di Stronzo. Comunque buonasera a tutti e due. Ciao Franco, ben sentito. Ciao Franco, buonasera, via Bullic. Ciao Claudio. Ascolta, mi raccomando, poi domani dico chi sono. Mi chiamo di Claudio. Beh, ormai è in pensione, è vecchio. Ah, sì, c'è la modulazione che mi assomiglia. Lo so. E lui che mi ha rubato la timbeca. Ce lo può essere. Vabbè, arrivo anche a Sosso in 27, visto? Porco mondo. Come arrivo a Sosso? A Sosso? Guarda, è successo. È 9:10 qua. 9:10? Così tanto? Chiaro. Come così tanto? Sei sempre arrivato così. La radio 5 è buona. Fabrizio, idem. Oh, scusate, ciao Franco. Caffa, ciao Tino, ben ascoltato. Tu sei 9:20, tu non passavi la Grecia. Vabbè, noi siamo anche più vicini, Infatti. Quanto lì vuoi, guarda un po'. Cazzo, vai, a me sei 9:30 tu. 9:30. Da te, Fabrizio. Insigne, vaffanculo. A Sorso come arrivo? Ma adesso ti sei aumentato un po', sei 9:25. Come mi sono aumentato? Forse è perché sto fischiando i picchi positivi. Ora, vabbè. No, scusa, ho sbagliato io. Stavo guardando l'altro monito. 9:15. Guarda che sto facendo questa radio, che non so come la usavo, con la ferma parete che ho preparato. Ora come sta uscendo, se devo abbassare un pochettino i miti. Stai, per me sei troppo alto, ormai che viene stai trappando. Abbasso? Sì. Abbassato un po' il miti game, come vi sembra? Dittimi un attimino se devo ancora abbassare. No. Abbassa. Ho ancora abbassato, Tino, abbassa ancora? Ancora un po'. Ecco, abbassato un altro po', come ti sembra? Adesso è più comprensibile di prima, Foccati sei entrato sparato, ma la radio era incomprensibile, abbassa ancora un pochino. E dimmi quando può andare bene, che sto ancora abbassando, devo abbassare, va bene, dimmi tutto. Dipende dal filtro, no, lascialo come di prima, senza abbassarlo molto. Cioè, l'ultima volta che hai abbassato. Ecco, guarda adesso, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova. Guarda un attimino se va bene, devo sollevare o abbassare. Lascialo così. Eia. io sto usando, qua posso fare anche leggermente così, ecco qua, adesso sono a posto. Ascolta, dati, questo vabbè, era parecchio, vabbè, fermo, ogni tanto lo sto accendendo, però era parecchio che non usavo in modulazione. Come sta arrivando lì a sorso? Vieni avanti. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova. Guarda come sta arrivando, sia di radio che di segnale. Di radio è 5, segnale 9, 5. Va bene, l'altra sta andando bene, dai. Anche l'antenna sta andando bene, quell'antenna che avevo in alto, che aveva passato la stella, che ce l'ho a livello del petto, del petto del terrazzo, dai. Ed è sempre lì, da 3 anni, buttata lì e grazie a Dio, stazionaria e zero, sta sempre andando. Meglio Gai. Guarda che c'hai, adesso ti sei presentato un fischietto, ti sei presentato, ti sei alternato. Ancora alternato qualche cosa. Poco fa l'ho sentito mentre stavi parlando a lungo, un pochettino alternato, adesso no. E ce l'hai un pochettino su con modulazione prestata, va. Però se c'ho il processore, non so se c'è, vabbè, boh, un giorno non lo usavo. Perché questi 440, uno ce l'ho qua, che abbasso, ecco, abbassiamo un po', mitigain, no, la potenza, uno ce l'ho qua e uno ce l'ho a Platamona, ma sono tutti e due fermi, ho paura che tu quando li accendi, che rimangono tanto fermi, che poi non funzionino più. Ecco, avanti Tino. Vabbè, qua devi 9.15, la radio te la lascio 4. Perché è troppo compresso, vabbè, se tolgo il processore come ti sembra, che vada meglio e basta. No, no, così no, così è facissima. Vabbè, vai anche un po' il barone, fammi arrivare quindi. Vabbè, sto usando il Tanner Super Fidery che è qua, con questo apparecchio qua. Deve giocarci un pochettino per fare un po' di regolazioni, ma per quello che la uso anche è troppo bene. No, questo passaggio è andato bene. La vabbè, devo parlare un po' più piano col microfono, magari un po' più lontanuccio. E va bene, aspetta, spegniamo queste altre radio qua che magari stanno disturbando. È tutto qua. Va bene. Vabbè, allora va bene quell'altra radio poco fa, dai, così non aveva niente, chissà che gli ha dato il controllo, va. Io, Fabri, ti ripeto, a orecchio, al mio orecchio andava bene, in frequenza la radio era abbastanza comprensibile, quindi, poi, ti ripeto, a mio orecchio. La mangia andava bene, qui si stanno ammazzando, la mangia andava bene, era collegata sotto gli strumenti, era a posto, però gli dicevano così e allora gli era venuto il dubbio, la mangia non ha niente, meglio gai. Riprendi Walter che la tolgo dal banco, almeno c'ho più spazio. Ma Walter si è allontanato. Che radio era quella, Fabrizio? Un presidente, un vice presidente, un Giorgio, no, il Giorgio presidente. Ah, sì, sì, ho capito. No, stavo uscendo bene, non è che... anzi, pensavo io che stavo usando un cable. No, no, no, va bene, dai, no, adesso lo sto usando. Aspetta che la metto in una butta e ritorno. Sì, io. Sì. Vabbè Tino, cosa stai combinando? No, PC è meglio, sto a guardare qualche mail così che ogni tanto te ne mandano una cinquantina di pubblicità, quindi devo stare lì a fare spam e pulizia. E niente, ho sentito un colpo importante, allora siamo entrati. Capo, no, io non ce l'avevo neanche sintonizzato qua, ci avevo l'altra, il presidente di Lincoln, ci avevo sintonizzato qua. E vedendo il, come si chiama, i LED che aumentavano, giù, ma qua c'è gente, ci avvenimento strano. Avvenimento strano, raro, Ma a sorso arrivo più forte di Fabrizio, normale, dai. Sì, più forte sì. E Tino invece arriva meglio lì. Tino arriva fortissimo, arriva qua. Ma sei, dove sei Tino? Su dove abiti? La Sedoccia? No, la Sedoccia, al monte. No, io sono in periferia, della Sedoccia, andando verso Platamona, diciamo, dove abita Marcello, per farti capire la zona. Non so manco dove abita Marcello, io figuro. Vabbè. Non gira di più. C'è Samu che ha preso il gatto dalla coda e l'ha lanciato con un discobolo. E lì quando arriva qua, a casa tua? Guarda un po', allora. 9.20, a cosa, sì, più a, dovresti essere a Liputi. Sì, più o meno, verso San Giovanni. Ecco. Che arrivi lo stesso livello che mi arriva Giulio, mi arriva. È una bella consolazione, si arriva più forte. Marcello. Vediamo Scorpio come arriva. Scorpio! Scorpio! Non è ancora acceso Scorpio. E poi Fabrizio ha detto poc'anzi, rimaniamo sempre in questo canale a vedere se c'è la gente. Siamo sempre, o perlomeno quasi sempre, in ascolto sul 23, perché c'è un pochino più di attività lì, sempre i soliti ignoti. Buona sapersi, io mi ricordo per il canale 10, questo canile, vabbè, quindi 23 al limite, se il cartone non sono riuscito a fare niente. E infatti volevo dire, Franco, ma già sei tu, sì, che qui ci siamo visti per quella radio che avevo preso, no, mi sto sbagliando. Certo, ne sono io, di Franco a sotto ce ne uno solo. Poi l'avevo rimessa a posto, se tu, a parte che se la vedi non la riconosci, sia di carrozzeria che di elettronica. Se la vedi sembra uscendo dalla scatola adesso, perché avevo trovato il frontalino anche tutto quanto. E quello che sì, avevo ricostruito tutti quanti i VCO e il lavoro grosso era quello. Però poi non aveva anche un altro problema, che tu non te ne sei mai reso conto sicuramente. E quale? Era sorda quella radio. Ma di quello non me ne sono mai accorto. Vabbè. È stato difficile, perché io la sentivo bene, era. Non lo so. No, ti spiego perché tu non te ne sei mai accorto, perché i segnali erano uguali. Cosa hanno fatto? Siccome ma era molto sorda, siccome aveva invece di 115, meno 115 dB, forse iniziava a sentirsi a meno 100 o qualcosa del genere, comunque era sorda, no? Ma non poco. Allora cosa hanno fatto? Siccome per farla hanno sollevato lo smitter, cioè hanno sparato lo smitter, praticamente vedevano il segnale che arrivava in un'altra radio, qui lì magari ti arrivava a 9-10 e lì magari ti arrivava a 8-8 ti sarà arrivato. Allora l'hanno preso e hanno portato lo smitter con la lucidità e l'hanno portato a 9-10 anche quello, quindi tu magari non te ne rendevi conto, te potevi rendere conto su segnali bassi, ti rendevi conto che con una ricevevi e con l'altra no. C'era un problema proprio sulla parte, l'ingresso della parte ricevente. Ho capito, ma non me ne sono mai accorto, a parte magari non ci ho fatto manco caso di quando accendevo tutti e due insieme, magari nella stessa frequenza dei segnali, e di solito ne accendevo solo una e l'altra la tenevo spenta, è per quello magari. Aspetta. Aspetta per farsi entrare, già ti ho sentito, la modulazione è bassa, il segnale è 9. Tu, per me è metallica, avanti DVL, Fabrizio. Sì, ciao Marco, ben sentito, sei basso di modulazione, non ti avevo nemmeno riconosciuto, immaginati un po', vabbè magari non abituato a sentirsi, tutti qua siamo, ok? Lo sono una settimana chiamando, cercando qualcuno per fare delle prove, siamo tutti qua. Sì, così fra, avevano fatto questo giochetto, che poi non era niente, era nella parte in ingresso, alla fine, mi sembra di ricordare, non vorrei sbagliare, ma era una resistenza solamente alla fine, che era partita, non vorrei ricordare male, capito? E comunque, visto che funzionava tutto bene, era sorda, hanno sollevato lo smitter, loro avevano risolto il problema, capito? Chi l'ha fatto è la classica furberia che si fa. E dico, è stato Marco, prova adesso. Va bene Marco, anzi ci abbassi un po', è già bella amplificata, abbassa poco. adesso va benissimo, dopo fare i ripassi adesso va benissimo. Dicendo una cosa, ma secondo me conviene ripristinare il 525 tenere, come ho visto che qua 3300 non sta più funzionando. Secondo me quando siamo in giro magari in portatile quella frequenza è buona, e poi magari ripristiniamo quella, perché dobbiamo tenere come frequenza monitor per quando siamo in stazione, la tieni, perché per esempio anche stasera tutta la sera c'era in radio, no, solo anche io ho visto che c'era propagazione in apertura in 10 metri, ho aperto l'antenna, ero lì pronto, poi invece mi sono messo a giocare con quella radio, con questi riprogrammare i portatilini, una cosa e l'altra, e quindi non ho fatto radio, vabbè, anche se posso fare radio, giocare, adesso mio figlio mi spettere. E niente, se fosse stata quella come prima, 5.25 ci saremmo sentiti e magari avremmo fatto due collegamenti insieme. Vabbè, riprendi Marco, fai girare tu. Poc'anzi eri molto molto basso come ti ha sentito Walter, anche io un pelino, però c'era Franco che stava modulando, quindi si è tappato di brutto. Ti lancio il mic, dai, per Marco. Capo. Ciao Marco Corsi, ho ben ascoltato. Ho metallicchino, però ti sento bene. Ti riesco a capire abbastanza. Ok, io ripeto il microfono a Fabrizio perché vi devo lasciare, mi è arrivato gente. Se ci sentiamo. Ciao Fabrizio, ciao Walter, Marco e Tino. E ci sentiamo tutte le prossimine, magari. E niente. Riprendi Fabrizio. Ok, grazie. Mi prendo, ciao Franco, alle prossime. Ti stavo dicendo Marco, io sono in ascolto a 400 sull'R7 Alfa, o a 430 e 400, perché tanto se parlano lì nel 7 Alfa sento anche molto forte, 8 mi arriva, 8, 7, 430 e 400. E poi ho l'R1, 430 e 100 ce l'ho sempre, però è sempre in digitale, dunque non credo che chi non ha il CFM, l'FMC4, CF4 FM, che si chiama, possa rimanere lì in ascolto perché dà fastidio tutti quei rumoracci. Io ce l'ho perché sento, se mi sono collegato anche alla Room Italia, dunque sento questi ogni momento di tutte le stazioni estere italiane. Se voi dovete te la presto, ne ho una che può fare quello, un VHF mi banda, duo banda, però in modo che così riesci a capire se vuoi provare per un po' dello stretto. Va bene, se per non ti interessa posso prestare anche a Fabrizio, che è lo stesso. A te Marco, bastava chiamare, io vedi che ti chiamo quando entro in radio. E tu non chiami, nella chat io non entro sempre, ci sono mille messaggi, ho la testa in brodo. Mandami un messaggio nel personale, numero diretto. OK, riprendi Sgorbio. Thank you. già dato di sé. Anche perché, ma ti spiego, ho abbassato un pochino la timbrica di voce, più che altro, non il Michigan, perché non è molto accessibile in quanto è dietro la radio, capito? Non è molto ripetitivo, va bene, è comprensibile. E come dice uno, giallecca, giallecca. Anche troppo. Quando ne hai troppe, Walter, sbagli il microfono. Okay, ma sono sumi, non so, tanto quanto. Però fuori il 74, io quando il 27 vengo solo nel canale con la frequenza, meglio 27 550 59 o 555, perché sugli Alfa Tango avevi sempre quando c'è propagazione, se io vado ai 15-20 non sento niente con la mantova 1, se tu vai in quei canali lì a 27 550 55 sono le stazioni di X. Sì, è un po' di passaggio, di passaggio già vado intanto, anche perché mi sembra che sino al 55 ci siamo portati, se mi sbaglio, adesso non me ricordo. Vabbè, lo senti adesso questo sudamericano? Sì, però Santiago 4 è basso, ma riesco a ascoltarlo. E tu, Fabrizio? Che cosa? Senti chi? È questo sudamericano, portoghese. Sì, sento che c'è qualcuno ma basso, Ma prima poi è cambiato radio, vero? Sì, adesso sto usando il 440. Va bene. Sì, guarda se trovi quella. Quando trovi di nuovo quel coso per regolare internamente il gain, se riesci a trovarlo, Fabio. Che viene, insomma, non tanto bene spostare tutto quello che ho qua, perché ce lo voglio attaccato al muro. Te l'ho detto, era il Mickey Gain, giusto, aveva problemi, avevo fatto quella modifica. Sì, sì, no va bene, andare bene va bene, è che molte volte, sai, io la tengo accesa, però quando uno magari va, sale un pochino, non so, quindi il radio aumenta e tocca abbassarla per appena. Al limite abbasso la timbrica della mia voce. Allora, se dici, io ogni tanto ci centro, e quando lo trovo te lo dico, tanto se non sbaglio di ricordare la Mickey Game, fammi vedere, ce l'ho davanti, Mickey Game con lo squelch, è il modulino davanti, e tanto poi bisogna smontare anche tutto e sostituirlo, perché quei potenziometri non si trovano più così singoli, capito? È impossibile trovare. Eia, scappa. Sì, no, ti spiego, io ho una mensolina attaccata al muro dove ci sta giusta la radio e tutta la linea, diciamo, e a fianco le altre radio così. Però per farla, per modulare un pochino, cercare di fare la regolazione, dovrei praticamente toglierla e insomma vi è male. E quindi se riusciamo, ebbene, se no vabbè, rimarrà così momentaneamente. Sì, quando come lo troviamo? Aspetta che sto salvando, aspetta, vai che sto salvando un file che lo devo buttare dentro la radio, vai. Poi mandalo via postato, via mail. Cosa devi prendere mail? Dove te lo metti in testa, te lo metti tu questo file. Guarda, ti do il cavo e se riesci a fare, se ti riesci. No, mandi via mail, ci riesci. Tu, allora apri col coso, me le me le dai e te le, ti colleghi il cavo e te lo butto dentro il coso. No, oggi stavo impazzendo per il driver, per questi prolifico, questi cavolo di interfaccine che servono per, ne ho parecchie, hanno tutti un macello, sono farle funzionare, addirittura non sono più riuscito a far funzionare l'interfaccia dell'antenna e sto andando con la port USB, perché quella com che c'è non ci sono riuscito, ho uscito da quando ho riformattato, un macello, perché ce ne sono di mille cose, ci sono le tarocche, ci sono le cinesi, ci sono le originali, qui sono i file, è un gran macello. Costano 2 lire, prima costavano leggermente di più, ma almeno le originali andavano bene. Comunque, adesso fammi fare la prova, se riesco a buttarla dentro, dai, riprendi il tiro. Fai. Qua abbiamo acceso anche il phone, non so se lo senti anche. Ma la fa vedere, dai. Non si sente, ma senti qua invece. Ancora, adesso c'è un picco negativo che è calato. Dove è poco fa? Sì. No, vabbè, lo puoi fare. Mi imbavaglio. Abbassa le voci. No, è una cosa allucinante. Ma è sparito da queste frequenze? Ci ha venduto tutto. Ma io sono un po' che non lo sento, anche perché... Anzi, spero, l'ho sentito la settimana scorsa, se non sbaglio. Però non ho avuto tempo a entrare a salutarlo. A quanto dice lui vuole smontare un po' tutto, un po' la stazione, me ne frega un po' più niente, ogni tanto si sente, ogni tanto no. Quando sente gente entra invece, ma già dovrebbe essere l'ascolto. Ah, è Marco, è sceso giù. L'avrà picchiato la moglie. Quando la moglie chiama è inutile che ti devi andare, devi correre, scattare, peggio del militare. Ah, così è. Poi basta una volta chiamato che ci vuole anche tempo a scendere. Ho preso un Land Rover come il tuo, sì, un altro, però forse l'ho già dato. E di che anno? Boh, non lo ricordo. 4 porte. Ah, ho capito. No, quelli che vanno di più, ho fatto su io, sono quelli a 3 porte, però modello sport. No. 4 porte come il tuo. No, il mio è 3 porte, 2 davanti e fa, ecco. La prima luce, ho più luce a 30 euro, la sua tania. Lì non ci sta nel Land Rover. No, è 4 porte, quelli già sono i tuoi 2, questo ha 2 porte in più, è un po' più lungo. Meglia. Sì. Ma vabbè, ma già vanno. L'unico difetto di quella macchina è purtroppo che sono sempre 4x4, però sono camioncini. Sì, pensavamo che non rientrassi più, che avevamo già gessato. Ma... No, adesso sto solo in sotto il campo. Comunque, piacere è meglio senza. Sì, non lo mettere, Marco. Thank you. capito. Mi ha messo un dubbio perché ultimamente l'ho vista una e non so se era quell'anello che fece tu o l'altro. Visto anche io ormai sul tetto per accaduta, avevo ricostruito pezzi in alluminio, diciamo in un Frankenstein ormai, però sta sempre andando. Ma io devo guardare un attimino su sul tetto, mi sa che ho due basi dalla Mantova, però devo verificare prima di darti conferma, vedere un pochino se ci sono ancora. Non ti credere che sia, però è sempre lì, mi era caduta, se ti ricordi l'avevo ricostruita, ho trovato i pezzi rifatti, e andava bene, secondo me la Stellar, la Mantova 1, la Mantova 5, la Mantova Turca, secondo me sono tutte lì, poi vabbè come costruzione, però come rese, anche come antenne, io credo che siamo lì alla fine, non è che una vale l'altra e magari qualcuno un po' meglio, ma non lo so. Sono seduto dal momento che ho usato la Mantova. Guarda, noi in questi giorni scendiamo in un posto, tanto ce n'è più di una, ne prendiamo una e la piazziamo a casa tua, Marco, ma che ci vuole molto. Sì, lui al limite cosa può succedere? Gli niente, lo portiamo al bar, gli poi metti 4-5 passi avanti e uno scende giù e fa il lavoro. Senti, no. C'è un casino qua, non sento una cadere per poco. sono in alto. Guarda che io dovrei essere molto più basso di te, io sono quasi a livello del mare, non è che... Scusami, io sono 80 metri. Eccoli qua, che riprendiamo, ok, a posto, fatto questo lavoretto. E beh, ah, sto uscendo, no? C'è qua, avevo un po' di problemini, adesso ce l'ho, adesso provo, guarda, se c'è Walter, ci sei? Mi stanno chiamando a mangiare, vedi che mi avvicino a mangiare, beh, magari ci sentiamo dopo, poi se rientra Marco, a dopo che vado a mangiare che mi stanno chiamando. Ehi, vabbè, dai, anch'io, mi devo lontanare un attimino, ma giusto un attimino perché devo togliere, ho lasciato il bambino in ammollo, sono proprio molle, vabbè. Devo asciugarlo, che da 50 è impegnato a fare altre cose, tirando, quindi mi tocca anche a me. Vabbè, dai, che spegniamo un po' qua e poi magari rientriamo, anche questa non mi sciazzi, questa la teniamo accesa, va bene, dai, ci sentiamo magari dopo, poi mi sposto a mangiare, a dopo, ciao. Vabbè, dai, anche io rimango un attimino con Rix qua, poi andi mi stai. Se coincide... ci risalutiamo, se no a domani. Oh gatta, me lo ascolti Tino? Tino? Sono ritornato, non so se c'è una qualcuno. Aspetta, adesso siamo. Aspetta, sono al telefono un attimo. Ero con Gino, però sto facendo servizio a Tavolara e non c'è niente, adesso proverà anche lui questi giorni. Ciao Walter, se sei all'ascolto. Ciao a te. due, per gli eventuali scontoni. Ciao, sì.